Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Edoardo Nesi, autore di Storia della mia gente, pubblicato da Bompiani. Un libro in cui sostanzialmente si narra il disfacimento del distretto tessile di Prato a partire da una storia personale. Com'è nata l'idea di questo libro? È nata purtroppo dall'esperienza, dall'aver vissuto a partire dal 2000 un momento di decadenza assoluta del mercato del tessile, sia alto sia basso, che a noi a Prato facevamo da sempre. L'azienda della mia famiglia faceva tessuti fino dagli anni 20 e negli ultimi anni era diventato impossibile competere con i tessuti che arrivavano e arrivano purtroppo dalla Cina. Il romanzo inizia proprio con la chiusura della fabbrica di famiglia, giusto? Con la vendita. Con la vendita, sì. Sì, è un passo necessario che però poi ha fatto scaturire tutta una serie di reazioni anche in me, perché insomma l'ultima cosa che mi aspettavo nella vita era di ritrovarmi senza lavoro. Invece è successo proprio questo, che sono stato un imprenditore per 15 anni e quando ho venduto l'azienda, perché volevo anche, sono rimasto senza lavoro. Allora quella che era l'attività dello scrittore è diventata pian piano la mia attività principale. È diventata l'attività preponderante, che però poi è finita anche nel narrare appunto l'esperienza della vita imprenditoriale. Beh sì, io credo che questi siano tempi assolutamente straordinari e che quello che sta succedendo in Italia oggi sia assolutamente degno di essere raccontato, come e più di qualsiasi esperimento di narrazione, perché se uno si inventa una storia fa un'operazione comunque ragguardevole se gli riesce, ma raccontare il vero, raccontare il reale di questi tempi incredibili e provare a raccontare anche l'impresa, beh, questa era una cosa che mi affascinava molto e sono contento di averlo fatto, di esserci riuscito, ecco. Parliamo allora di che cosa si parla appunto in questo romanzo. Il romanzo inizia con la vendita dell'azienda di famiglia. Perché si è dovuto arrivare a questa vendita? Beh, appunto perché le condizioni del mercato sono diventate estremamente difficili, ma non a causa di un problema interno dell'azienda, ma di un problema esterno, del fatto che la globalizzazione, l'apertura dei mercati, presentata come una grande occasione per tutta l'Italia, una specie di panacea, invece aveva colpito duro su tutte le aziende manifatturiere d'Italia, di quelle della provincia di Prato, quelle della provincia di Ascoli, insomma, ovunque, in Brianza, ovunque. Nel libro faccio una serie di elenchi di zone in crisi, zone in crisi dove invece le aziende prima andavano bene. Ma qual era il problema? Il problema era la concorrenza che arrivava dai paesi stranieri, per esempio la Cina? Sì, soprattutto. E poi soprattutto anche il fatto che sia i nostri grandi economisti, dico grandi tra virgolette, non so se sono sentite, sia i nostri politici che andavano a ruota di questi economisti, continuavano a raccontarci un'altra storia, una favola, l'idea che la globalizzazione ci sarebbe servita perché noi avremmo venduto ai cinesi, quando invece i cinesi non sono corsi a comprare il Made in Italy, i cinesi hanno cominciato a produrlo il Made in Italy. Questo è il problema sostanziale. Nel romanzo si parla anche con molta ironia, appunto si usa molta ironia sugli economisti e sui politici, no? Beh sì, insomma io ho passato anni a leggere gli editoriali di Giavazzi sulla prima pagina del Corriere della Sera e ogni volta erano come delle pugnalate, delle stilettate, perché vedevo e potevo constatare quanto lontana fosse l'opinione e la comprensione degli economisti di quello che stava succedendo alle nostre piccole aziende. Ci veniva in sostanza consigliato di licenziare gli operai per assumere dei giovani matematici. Ora io facevo dei tessuti e avevo bisogno degli operai, non dei matematici. E i politici invece come si comportavano? I politici peggio ancora, perché in realtà mai da parte loro c'è stato un tentativo di comprendere quello che stava succedendo e soprattutto mai c'è stato un tentativo di fare quello che almeno facevano i politici delle altre nazioni europee. In Inghilterra, in Francia, in Germania, in Scandinavia, al cambiare delle maggioranze di governo, mai cambiava il sostegno ai sistemi produttivi dei singoli paesi. È evidente che l'industria chimica e automobilistica tedesca è stata sempre difesa con le unghie dai tedeschi, in Francia i contadini e tutta la loro agricoltura, l'Inghilterra si è rifiutata addirittura di prendere l'euro, non ha firmato neanche Schengen. L'Italia invece non ha difeso quello che era il suo patrimonio, lo diciamo sempre, quello delle piccole e medie imprese. Beh, l'Italia ha svenduto completamente un patrimonio straordinario. Ora poi vede, io sono innamorato di Prato, la mia città, ma a Prato il sistema era completamente diverso da quello che ci si può immaginare. La piccola industria diventava anche a volte piccolissima, quasi microscopica. Però questo frazionamento di energie, questa filiera estremamente frazionata, invece che creare diseconomie, creava economie, creava vantaggi. Un sacco di gente ha fatto giustamente ricchezza, ha fatto i soldi lavorando a Prato nel tessile. E nel momento in cui invece è arrivata la concorrenza cinese, come hanno reagito i piccoli imprenditori appunto del distretto di Prato? C'è stato un vero e proprio terremoto? Sì, hanno reagito disordinatamente cercando di abbassare i prezzi quando in realtà il prezzo cinese è assolutamente irraggiungibile per noi. C'è stato un tentativo disperato di fare delle cose di più alto livello, di più alto costo, ma è anche vero che poi i famosi prodotti di nicchia che i grandi economisti ci consigliavano di fare, ma la nicchia, se uno va a cercare il significato sul dizionario, è uno spazio circoscritto molto piccolo, non ci si può star tutti in una nicchia. Quindi insomma riuscire a fare un prodotto di qualità, come si dice sempre, made in Italy, non è bastato, insomma non era sufficiente a far andare avanti le aziende. Ma no, non è sufficiente, anche perché c'è questa legislazione assolutamente ridicola. Io le faccio un esempio, insomma a Prato noi abbiamo una grande comunità cinese che si è stabilita a Prato. Questa comunità cinese che fa abbigliamento, che tra l'altro è considerato chissà perché vicino al tessile, quando c'è un'enorme differenza tra saper fare i tessuti e saper fare i capi d'abbigliamento, questa comunità cinese compra tutto il tessuto dalla Cina, lo importa dalla Cina, lo fa lavorare a Prato da lavoranti cinesi che vivono in condizioni incredibili, sembra di entrare in un romanzo di Dickens quando si vedono i loro capannoni, e però cioè nessun italiano neanche tocca questa materia, che però viene venduta made in Italy perché la legge consente a qualsiasi azienda che sta sul territorio italiano di marchiare made in Italy. Quindi i tessuti arrivavano dalla Cina, venivano fabbricati diciamo da cinesi in Italia e poi l'etichetta era made in Italy. Esatto, e è questo ciò che dà il successo a questo pronto moda, a questi cenci di pronto moda che loro vendono ovunque, dai mercati fino ai grandi outlet. Chi è che è riuscito invece a salvarsi nel distretto di Prato? Qualcuno ce l'avrà fatta? Sì, ce l'hanno fatta, ma il problema è che non sono degli esempi riproducibili. Per esempio c'è una grande azienda, che grande per il sistema pratese, cioè 100 milioni di fatturato, non grandissima, che fa dei tessuti contro la psoriasi. Quindi una nicchia molto, molto cioè, particolare. Bisogna essere veramente bravissimi, ma un distretto non si regge solo sui casi di eccellenza. E che cosa è accaduto proprio a livello sociale, visto questo terremoto economico che è avvenuto nel distretto di Prato nel momento in cui è arrivata la concorrenza cinese? Dal punto di vista proprio sociale, che cosa è accaduto? Beh, il disagio è molto forte, perché poi tra l'altro Prato è una città molto orgogliosa e si era fatta da sé sostanzialmente. Mai abbiamo chiesto qualcosa alla politica, altro grave errore, ma ci siamo fatti rappresentare degnamente. E l'idea che noi facessimo i tessuti più belli del mondo, cosa che sembra un po' buffa ma ce la dicevamo, era anche vero, perché poi la storia della moda va un po' riscritta. Cioè, io non so se abbiamo il tempo di parlarne, ma quando si compra un abito, un capo d'abbigliamento, da statistiche, da inchieste fatte, è come ovvio, insomma la prima cosa che si nota, per la ragione per cui per l'80% delle volte si compra un capo, è il tessuto, la mano del tessuto, l'aspetto del tessuto, il colore del tessuto. Il taglio, cioè l'opera dello stilista, conta solo per il 20%. Però gli stilisti sono diventati artisti e vengono esposti al Guggenheim o al MoMA. E non raccontano mai di chi sono i tessuti degli abiti che vengono esposti nei grandi musei del mondo. Questa è un'ingiustizia suprema. Mio suocero era uno dei grandi creatori dei tessuti di alta moda e non è mai raccontato, non lo conosce nessuno. Ma quanti dei grandi capi, quanta della grande moda italiana è stata fatta a Prato e nessuno lo sa. E grazie a Edoardo Nesi, autore di Storia della mia gente. Il libro, lo ricordiamo, è candidato al premio Strega, il libro che guida la cinquina finalista. Gli altri sono L'energia del vuoto di Bruno Arpaia, pubblicato da Guanda, Ternitti di Mario Desiati, Mondadori, La vita accanto e Inaudi di Maria Pia Veladiano e infine La scoperta del mondo di Luciana Castellina, pubblicato da Nottetempo. Riguardo invece un altro premio letterario, il Campiello, vi segnaliamo ricordiamo che la cinquina finalista incontrerà il pubblico martedì 21 giugno a Venezia, mercoledì 22 a Castelfranco Veneto e il 23 giugno invece giovedì a Milano. La cinquina è composta da Maria Pia Ammirati, Se tu fossi qui, Cairo Editore, Ernesto Ferrero con Disegnare il vento e Inaudi, Giuseppe Lupo con L'ultima sposa di Palmira, Marsilio, Federica Manzon con Di fame e di sventura, Mondadori e infine Andrea Molisini con Non tutti bastardi sono di Vienna, pubblicato da Sellerio. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.